se fidi de nissen e varti to es come una televisione. Ma insegna come se fa scappa, come se fa picca, come se fa cupa. O mai vedi una turta ma mai fa un basen, o sempre fa la guerra de quan seri penen. Gio nella palta, gio nella terra, acqua sangue nef, e guerra, guerra, guerra. Diceva spara, spara, spara Juan. Crepa venia mis, passa venian. E me diceva spara, spara, spara Juan. Seguita busa, spara, spara, Juan. Ma des che si giri, as forze l'uriman, e dicen fermo, fermo, spara, mena, Juan. Ma des che me as, pien, pien, danzan, e busen fermo, fermo, spara, mena, Juan. Spara, mena, Juan.